additandola anche a dire, insomma, l'ha citata non in maniera elogiativa, bisogna dire. Allora, il momento del massimo scontro, confronto, quel devi andartene, mi cacci, insomma, che oggi viene citato da tutti i giornali, è stato questo, lo vogliamo far risentire, insomma, il momento della maggiore tensione verbale tra Berlusconi e Fini. Prendo atto con piacere che Gianfranco ha cambiato posizione. Ma quando io e Gianni hai cambiato totalmente posizione, allora Gianfranco, allora parliamoci chiaro, sono venuto da te martedì e davanti a Gianni Letti mi hai detto, punto primo, mi sono pentito di avere collaborato a fondare il Popolo della Libertà, punto secondo, voglio fare un gruppo parlamentare diviso, punto, e io ti ho chiesto... La Sicilia, ti rispondo subito, per iniziativa di... Vabbè, Ignazio, poi si è sentito Fini parlare della Sicilia, poi si è parlato della Sicilia. Però, Giorgio Mulè, vorrei partire da questo. Berlusconi ha detto, mi sono pentito, mi hai detto di essere entrato. Insomma, allora Fini dovrebbe lasciare questo PDL oppure sta bene lì in minoranza a fare il contrappunto, dice Berlusconi. Ma guarda, Fini ha tutti gli strumenti per fare una sintesi politica, perché lascerei da parte tutto ciò che di personale c'è tra i due, da una sintesi politica di quello che è accaduto ieri. La sintesi politica consegna a Fini politicamente oramai l'essenza di essere, di rappresentare una minoranza della minoranza, perché alla conta, che poi in politica e in democrazia è quella che conta, appunto, scusate il gioco di parole, ha raccolto 11 voti la sua posizione su 170 delegati. Quindi inevitabilmente adesso ha un ruolo, consentimi, marginale all'interno del PDL rispetto anche, come dire, alla statura di Fini. Io vorrei dire, forse Fini ha giocato male le sue carte, perché era partito da un'ipotesi roboante che prevedeva la scissione o comunque la creazione di gruppi autonomi. Col passare dei giorni e con la verifica di che forze poteva avere dietro di sé, si è andati via via a ridursi, come a me ricordano quelle minoranze che c'erano all'interno del Partito Comunista, della Democrazia Cristiana, allora prima la corrente, poi l'abbiamo chiamata aria. Insomma, è stato un po' un naufragio politico, se vogliamo dirla tutta, quantomeno adesso. Non si è avuto il coraggio di fare fino in fondo quello che si era detto di voler fare, cioè il distacco dal partito, e ci si accontenta di stare in una ridotta all'interno del partito che potrà portare soltanto nuove frizioni, inevitabilmente, di qui a poco. Libero le ha definiti 12 piccoli finiani, già giocando sui 12 piccoli indiani. Vorrei partire da questo con Filippo Rossi. Allora, è questo il numero che conta? Oppure, leggo su Fare Futuro, scritto finalmente la politica, finalmente la possibilità di dissentire, di alzarsi e dire in questo partito non la pensiamo tutti allo stesso modo. No, notazioni, prima numerica, in realtà erano 13 e in realtà non hanno votato tutti, ma hanno votato un centinaio di persone. Siccome nella democrazia e anche nella democrazia interna dei partiti i numeri sono importanti, siamo un po' fissati, ma insomma è così, cioè la democrazia è una cosa seria. In realtà ieri la votazione è andata a finire all'incirca, perché non è stato dato il voto di chi ha votato a favore. Il risultato di chi ha votato a favore non è stato dato, non è ufficializzato. Comunque in realtà ieri è finito sostanzialmente 70-13 e non 171-11 come dicono i giornali berlusconiani. E attenzione, è impossibile che finisca 171-11 visto che il plenum è di 171. Quindi, siccome la democrazia interna ai partiti è una cosa seria, e questi 11, che poi in realtà sono 13 e che comunque equivalgono ad oggi a 20 persone sostanzialmente in direzione, in una direzione, attenzione, nominata da Silvio Berlusconi e dai coordinatori, e nei coordinatori ci sta anche La Russa, che adesso è berlusconiano. Quindi insomma, dal punto di vista della realtà interna di un partito vivo, che un partito non è fatto solo dalla direzione nazionale, ma è fatto anche dal territorio, dai militanti, dai simpatizzanti. Ecco, io credo che quel numero sia totalmente sottodimensionato rispetto alla realtà politico-culturale che rappresenta Fini. Cioè, in Parlamento poi che succede? Non nella società italiana, perché poi se parliamo della società italiana il discorso ancora cambia, ma rimaniamo dentro il PDL. quel nulla è totalmente sottodimensionato. Ma detto questo, è chiaro che un partito è fatto così, se no non è un partito, è una dittatura. E il partito è fatto di una democrazia interna, fatta di differenze, di componenti, di correnti, chiamiamolo come ci pare, pere, mele, banane, è uguale, il concetto è sempre lo stesso. In un partito ci deve essere la libertà di parola, di decisione, di intervenire e contrastare anche la leadership, perché se no non è un partito democratico. Detto questo, sì, se fosse come dicono i giornali oggi berlusconiani, lo sfacelo, di tutto di più, la domanda che faccio è: vabbè, ma allora che problema c'è? Se fossero veramente così pochi, se i Fignani fossero così irrilevanti nel centrodestra rispetto alla così stella berlusconiana, sì, che problema ci sarebbe? A questo proposito, no, ma infatti vogliamo sentire un passaggio di quello che ha detto Gianfranco Fini sulla questione del tradimento, l'accusa è il tradimento. Fini ha parlato molto di questo su questa dichiarazione, poi vorrei il parere di Mulè, sentiamo. Dire che su alcune vicende, su alcuni problemi, su alcune cose da fare abbiamo delle opinioni diverse è dimostrazione di alto tradimento, a tal punto da meritare appunto delle bastonature mediatiche o da meritare l'allestimento di roghi o addirittura ipotizzare i licenziamenti come avviene per i dipendenti infedeli, oppure è una dimostrazione di lealtà. Vedi, il tradimento allinea spesso in coloro che sono adusi all'applauso e in molti casi alla critica approvazione, salvo poi, quando i leader girano le spalle, dire tutt'altro. Raramente il tradimento è nella coscienza di chi si assume la responsabilità in pubblico e in privato di insistere su alcune questioni. Allora, questo ha detto Fini. Allora, direttore Mulè, è traditore Fini oppure dire le cose in faccia, alzarsi, sottolineare come fanno molti giornali, anche non solo di sinistra oggi come, non so, Repubblica, come Il Fatto, come L'Unità, ma anche il giornale, anche il Corriere della Sera, Cazzullo, cioè per la prima volta Berlusconi che si è trovato non una convention, non una platea dove ci sono solo degli osanda, ma qualcuno che ha alzato il dito e dire no, non la penso come te, non la penso così. È tradimento oppure è franchezza, voglio dire, dice Fini? Ma non è affatto un tradimento, ma ci mancherebbe altro, cioè viva Dio, c'è ancora dialettica e c'è dialettica anche dentro il PDL. Il problema è come si fa questa dialettica. Quando Rossi dice ma alla fine la stella non è offuscata, la stella è offuscata, è offuscato il cammino del governo, perché all'esterno, agli elettori, viene consegnata l'immagine, non solo l'immagine, di un partito che è diviso su questioni anche fondamentali, quando c'è magari un programma su cui tutti hanno apposto la firma. E quando poi Fini ha questa ossessione, perché è ossessionato povero, delle bastonature mediatiche, fa l'errore della vita. Cioè lui pensa nella sua testa che da Felti a Belpietro, magari mi ci mette anche un po' Panorama e gli altri, siamo tutti lì a prendere ordine a Berlusconi, a sentire Berlusconi. Io non sentirò Berlusconi da me, ma veramente da molti mesi, così come immagino Fini, eccetera. Ogni volta bisogna giustificarsi del perché si attacca Fini. A me Fini non piace, e oggi ho scritto che è come Balotelli, ma sì, non è che, perché lo penso adesso, poi la Fini la potrà pensare come vuole, chi se ne importa, ma nessuno prende, almeno per quanto mi riguarda, per altri potrebbe metterci anche la mano sul fuoco, cioè vorrei rivendicare il diritto a bastonare Fini quanto mi pare, senza essere per questo essere tacciato di essere al servizio di un padrone. Io, la mia libertà come altri, è un concetto talmente alto che sorrido quando Fini continua a inseguire. Dice ossessionato sì. No, perché siccome il condirettore del giornale Sallusti ha detto è un caso psichiatrico e Fini ha detto quello. Oggi Feltri dice è un caso più psicanalitico che politico. Dice che... Cioè ogni volta che si scrive una cosa su Fini, immediatamente Fini, ma poi lo sappiamo, cioè Fini è lì, alza, batte i pugni, il giornale, questo è Strisce, quell'altro... Cioè Fini, si dia una calmata, cioè accetti il fatto che non è soltanto dai suoi che possono venire delle posizioni, uno può argomentare, nel mio caso, nel caso di altri, viene argomentata una posizione, non è che diciamo Fini è una persona che non va bene perché c'ha il pizzetto o c'ha il sopracciglio storto, cioè il ragionamento è puramente politico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, le 8:33 minuti, ci stiamo chiedendo, molto direttamente. Secondo voi Fini dovrebbe lasciare il Popolo della Libertà dopo quello che è successo ieri? 800 24 00 24, se volete intervenire su radio24.it nell'home page per votare. Ne stiamo discutendo con il direttore di Panorama Giorgio Mulè, Filippo Rossi, direttore di Fare Futuro. Ci raggiungono anche altri ospiti che saluto subito dopo un paio di ascoltatori che sono lì. Ivan da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, che dice? Saluto a tutti e saluto in particolare il direttore Mulè, con cui ho avuto il piacere molti anni fa ormai di condividere lo stesso liceo. Facciamo no, questa carrambata, che liceo era, esatto, Ivan? Ce era lo il liceo classico a Mazara del Vallo. Vabbè, capito. Io ero un anno dietro di lui. Sono vabbè. Detto questo, Ivan, detta la carrambata, che pensi? Carrambata, mi sembra che la posizione assunta da Fini sia una posizione ovviamente legittima, questo non lo disconosce nessuno, nemmeno all'interno del PDL, ma con questa premessa non vedo come possa essere considerata talmente drammatica da poter portare a quei toni che abbiamo visto tutti ieri, a quei toni così accesi da parte di tutti, da parte del Presidente del Consiglio e dei suoi più stretti collaboratori. E quindi? Cioè, che deve fare? Deve andarsene? Io penso che non debba dimettersi, dirò una cosa banale, ma non mi sembra neanche uno scandalo che all'interno di un partito così grande come il PDL ci siano, si esprimano delle correnti, dei gruppi, delle opinioni dissenzienti o come dir si voglia. E in ultimo un paradosso, io non sono un elettore di centrodestra, anzi sono un elettore del PD, mi sembra davvero paradossale che a questo punto noi dobbiamo quasi tifare per Fini per impedire che vengano realizzate le riforme che siano molto vicine a quelle volute dalla Questo legge. Questo è un altro tema, ha detto. Fini piace a molti di sinistra. Mirko da Parma, buongiorno. Anzi, buongiorno. Andiamo Mirko, aspetti, andiamo prima da Mario da Roma, che è lì un po' che aspetta. Mario, Roma, buongiorno. Pronto? Dica Mario. Salve, buongiorno. No, senta, io praticamente volevo entrare in merito appunto a quello che è accaduto ieri e poi la tematica di cui state parlando stamattina. Il discorso è questo, io non posso fare una disamina sulle singole dichiarazioni di Fini perché andrei troppo per le lunghe, mi limito solo a dire questo. Intanto notavo già da parecchio tempo che c'era una frattura per quanto concerne il discorso come posso dire, degli accordi interni fra Fini. Vabbè, ma questo sì, lo vediamo, ma quindi, cioè, quindi come si deve si risolvere secondo lei? Giusta dialettica, sana dialettica, oppure ci si separi un altro partito? No, nessuna dialettica. Io ricordo solo una cosa, voglio centrare l'attenzione su un punto. La riconoscenza da parte di Fini non c'è mai stata. Io dico questo, l'unico imprenditore che ha preso una posizione smaccata nei confronti di AN, anzi ex MSI, sì, Musconi, in relazione alla candidatura di Fini a sindaco di Roma. Berlusconi disse quello che disse e in quel modo aprì uno squarcio nuovo nel panorama politico. Questo questo chiunque ha militato come me nell'MSI lo deve riconoscere e io lo riconosco. Cioè, che dice che Berlusconi è stato, diciamo, vicino a Fini, mentre Fini no, adesso non è altrettanto vicino a Berlusconi. Poi un'altra cosa, Filippo Rossi ad esempio, sì, no? Io ricordo quando stavo a Via Livorno 1 qui a Roma, io Filippo Rossi non l'ho mai sentito, adesso lo noto spesso alla 7 su Omnibus che dice cose assurde, perché cosa che mi è rimasta impressa è che ha detto che praticamente servono i cervelli e che la militanza all'interno dei partiti non serve più. Vabbè, adesso su questo magari Filippo Rossi risponderà, però siccome devo presentare anche, poi vado anche a Parma da Mirko, due ospiti che ci hanno raggiunto, vale a dire Flavia Perina, buongiorno, buongiorno. Del Secolo d'Italia, il nostro ospite anche altre volte, e voglio salutare il sottosegretario all'attuazione del programma Daniela Santanchè, buongiorno, ben ritrovata anche a lei. Allora, come detto sul Corriere, Aldo Cazzullo dice: per la prima volta dopo 17 anni una giornata senza niente, meno male che Silvio c'è, senza gli Osanna, una giornata in cui Berlusconi viene criticato anziché celebrato. E infatti oggi Flavia Perina le titola sul Secolo d'Italia: meno male che Fini c'è. Lei è una dei, Libero la definisce i 12 piccoli finiani che ha firmato o che non ha firmato il documento finale. Vi sentite in netta minoranza? Io sono una delle 12 persone che hanno votato contro un documento che era improponibile, soprattutto perché giudicava pretestuose i punti politici posti al dibattito dal Presidente Fini. Era un documento che è stato scritto apposta per depotenziare in qualche modo, per determinare quel che è successo, cioè la formazione di una minoranza interna, e credo che l'analisi di Cazzullo sia profondamente vera. Per la prima volta il PDL ha affrontato una discussione politica in modo aperto, senza affidarsi ai retroscena giornalistici. È stata una giornata per molti versi drammatica, però anche una grande prova di democrazia interna. Sì, ma adesso dove si va? Voglio dire, c'è anche Giorgio Mulè, direttore di Panorama, e Filippo Rossi. Mulè dice, poi alla fine i numeri contano, e alla fine sì, Filippo Rossi ci ha detto, ma non è proprio 11 a 170, non è così, sono 70-30 se vogliamo vedere, però al di là di tutto, insomma, siete pochi al momento. Osservazione. Diciamo, i voti della minoranza sono stati contati, non sono stati contati invece le tessere che si sono alzate a sostegno della relazione di maggioranza, che io potrei dire ad occhio, siccome era tardi e molte persone se ne erano andate, probabilmente non erano più di 50, 45, 50, ma il tema dei numeri, soprattutto in quella sede, in un organo dove che è stato, diciamo, deciso, indicato in gran parte dalle correnti interne al partito, dai gruppi interni al partito, non sono così rilevanti. Il punto della questione è che si apre una dentro al partito, quella che è una dinamica normale per tutti i grandi centrodestra europei, perché in Germania, in Francia, in Inghilterra non c'è l'unanimismo dentro i partiti. I partiti discutono, i partiti votano, nei grandi partiti di centrodestra si confrontano tesi anche contrapposte, senza che ciò significhi scandalo. Io penso che, superata questo momento di bufera, di drammatizzazione, perché appunto nel PDL non era mai successo, ci abitueremo anche a questo schema. Allora, vorrei chiedere a Daniela Santanchè molto direttamente, visto che lei è abituata a rispondere molto direttamente. La parola che spesso si usa oggi, se si vedono i giornali, è epurazione. Molti dicono, alla stampa per esempio, ora Silvio Berlusconi è il super falco, vuole l'epurazione, vuole togliere dal partito le persone che, i finiani. Secondo lei i finiani dovrebbero uscire dal Popolo della Libertà? Ma epurazione è una parola che non è brutta, sì, questa a Silvio è vero, Berlusconi, però... perché Silvio Berlusconi non usa questo linguaggio invece andava molto bene per Gianfranco Fini quando era il capo di Alleanza Nazionale e quando da capo comandava in Alleanza Nazionale, senza assolutamente questa democrazia che ormai da giorni sentiamo ripetere. Per una come me che ha militato 10 anni in quel partito mi fa un po' sorridere, perché le curazioni lì erano molto evidenti ed erano, non dico, voglio dire, quotidiane, ma insomma se si dissentiva dal capo si era cacciati. È successo a me di essere cacciato attraverso un comunicato ANSA quando feci la dichiarazione che sulla procreazione assistita non ero d'accordo con Gianfranco Fini, per cui voglio dire mi fa un po' sorridere, anche perché mi ricordo tutto un giorno all'Ergife con il presidente Fini che diceva le correnti sono una metastasi, le correnti sono una degenerazione, le correnti sono il male del partito. E quindi che dovrebbe fare ora? Voglio dire, ma guardi, io mi auguro veramente che Fini trovi il coraggio dell'azione, perché sa, fino adesso ci sono stati soltanto annunci, c'è stato l'annuncio, come ha ricordato ieri il presidente Berlusconi, cioè a quattro occhi, che gli ha detto faccio il gruppo per i fatti miei, sono pentito di avere fondato il PDL, per cui credo che nella vita ci vuole il coraggio non è col paracadute della poltrona, il coraggio non è avendo la certezza che comunque non cambia niente anche se si attacca in maniera così volgare. Il Presidente del Consiglio è il Presidente del Partito, ma quello che mi dispiace di più è che la gente che ha votato il PDL, la gente che in queste elezioni di medio termine ha rivotato per il Popolo della Libertà, per i governatori indicati dal Popolo della Libertà, cosa che peraltro in tutta Europa nelle elezioni di medio termine il governo viene sempre punito, questa volta è stato premiato, che Fini si metta a fare tutta questa cosa qua Perché cosa? Cioè, gli itali- non solo non abbiamo capito noi che ieri eravamo lì, perché non è una questione politica, è una questione personale, è una questione di potere. Finalmente devo dire che Fini, che non era abituato, ha incontrato Silvio Berlusconi, che non ha abbassato la testa, che è stato scritto un documento che poi è stato letto da Maurizio Lupi con delle indicazioni precise di comportamento, di regole, attenendosi a quello che è lo statuto del Popolo della Libertà. Insomma, lei dice perché l'ha fatto adesso e perché l'ha fatto anche dopo questa vittoria. Vediamo Filippo Rossi, visto che così Filippo Rossi risponde a questo e poi anche magari alle accuse qualcuno, l'ascoltatore, non so, vabbè, ma ha detto... No, vabbè, ma le accuse non, cioè, non è quello... Perché l'ha fatto adesso Fini? Dove vuole andare? Perché c'è la Lega troppo potente? Ma a me mi fa sorridere questa cosa che si accusa Fini di... fare tutto questo per le poltrone, per il potere, quando in realtà, come dicono loro, c'è un gruppetto di persone che sta rischiando in realtà quel poco potere che hanno. Il problema è che tanta gente dentro il PDL non riesce a capire che si possono porre delle questioni per dei contenuti, per degli ideali, per delle cose che a cui noi crediamo. Cioè, e questo è il problema. Certo, il PDL ha vinto, e poi bisogna discutere perché in realtà la coalizione ha vinto, non il PDL, ma comunque diamo per giusto il fatto che il PDL abbia vinto queste elezioni, e non ne sono convinto. Comunque i problemi che si pongono sono problemi di contenuti, di strategia politica, di diritti delle persone, non sono problemi di potere. Se fosse un problema di potere, forse la maggioranza, la minoranza di Fini sarebbe molto più piena di persone. Non ci scordiamo che Fini in questo momento ha rinunciato sostanzialmente, come da statuto, ad avere il 30% dovuto del partito per una componente che, come dicono, rappresenta il 10, il 12, il 15%. Questa è una questione di potere oppure è una questione di un politico che vuole mettere in campo le proprie idee? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? È salito al 65% nel frattempo, la percentuale, insomma, oltre 2500 i voti già arrivati. Fini dovrebbe lasciare il Popolo della Libertà, secondo i nostri ascoltatori. Mirko da Parma c'è ancora? È svenuto, sì. Mirko, no? È qua. Sì. Dica allora, la premio per la sua tenacia, dica. Sono in macchina, quindi. No, io volevo soltanto dire che c'è qualcosa che di non detto, ma che aleggia sempre in modo pesante in tutta la situazione, proprio anche perché viene schivato. Fini non ha più intenzione di esporsi personalmente, non so se per una questione morale o per un calcolo politico, nel salvataggio, nell'impedimento a tutti i costi dei processi a Berlusconi, che in questo momento sono molto pesanti. E quindi sarei curioso di sentire questa opinione, l'opinione dei suoi. Va bene, la chiedo a Giorgio Mulè, anche se con, voglio dire, è una questione di non volerlo più appoggiare nelle coperture giudiziarie, insomma, la traduco così, dice Mirko da Parma, Mulè, direttore di Panorama. Però c'è il legittimo impedimento, quindi che serve? Oramai il problema, come dire, è stato ibernato, appunto, quantomeno neutralizzato dall'ultima legge sul legittimo impedimento, quindi mi pare che quello sia una delle questioni che al momento... Però dice Rossi, non è una questione di poltrone, di potere, non traduciamola così. Ma io, guarda, è una questione di ideali, di valori. Lo dico cercando sempre di stare sul ragionamento e quindi in maniera assolutamente pacata. Quando Rossi dice loro, Rossi tradisce quello che oramai è all'interno di questa componente finiana, cioè non si parla più di noi del PDL, si parla di loro. Quando si arriva a concepire già un partito come una differenza tra noi e loro, si sancisce definitivamente un distacco, un fossato che non è più colmabile. Quando successe una cosa del genere all'interno dei DS, che ci fu la frantumazione prima con Rifondazione, poi dei Comunisti Italiani, è inevitabile nel momento in cui non c'è più, non il rispetto, ma il rispetto politico di chi sta dentro al partito, perché ciò che sarà la cartina di tornasole, bisognerà vedere di qui a pochissimo cosa succede in Parlamento, se cioè Fini da Presidente della Camera sarà in grado con atti, come dire, visibili di saper distinguere, di trasmettere all'esterno la distinzione tra se stesso Presidente della Camera e se stesso capo di una corrente di minoranza del PDL. Lo vedremo nell'ordine dei lavori. Lo vedremo nel Parlamento. Lo vedremo presto. Allora, intanto ci ha raggiunto, lo saluto, Francesco Storace, buongiorno. Buongiorno. Segretario nazionale della destra. Perché lei ha detto che le sembrava di essere su Scherzi a Parte in questi giorni? Cioè che... Ieri ho seguito via internet il dibattito, poi leggo i titoli dei giornali di stamane, quello che sono riuscito già a leggere, e confermo, perché delle parole di Fini mi sembra di essere ringiovanito, mi sembra di essere tornato 4-5 anni fa, quando gli argomenti di Fini erano i miei contro Fini. È qualcosa di incredibile quello che sto vivendo, l'accusa a Berlusconi, siamo appiattiti sulla Lega. Noi dicevamo siamo appiattiti su Berlusconi, siamo un partito, non c'è democrazia interna, che grosso modo era la cosa che dicevamo noi a lui, di lui, cioè sta usando argomenti che sono stati usati contro di lui nella sua vita, lui ha guidato due partiti che ha sciolto, l'MSI ed AN, e probabilmente la sua missione era sciogliere pure il terzo, però non è così, ed è quello che è grave, perché vede, io quando mi sono opposto a Fini era un personaggio tutto sommato marginale della politica, lui il Presidente della Camera. Io pongo una questione che ha un rilievo secondo me costituzionale. La Costituzione dice che il Presidente della Repubblica, prima di decidere eventualmente lo scioglimento delle Camere, sente i Presidenti delle Camere. Ma se uno di questi due soggetti è responsabile del Vietcong, del partito di maggioranza relativa, quale terzietà offrirà nell'esprimere la sua opinione al capo dello Stato? Accidenti, insomma, pone questo problema costituzionale. Visto che c'è Flavia Perina, uno dei 12 che non ha firmato... La saluto, buongiorno. Perina, che risponde a Storace? Pone una questione... Con il massimo rispetto per le competenze costituzionali... Come l'ha definito il Vietcong del PDL, l'ha definito? Ma, beh... tutti i costituzionalisti dicono il contrario, ci sono tanti, da Gronchi alla Iotti, ci sono tantissimi precedenti di presidenti della Camera che hanno esercitato un ruolo politico all'interno dei loro partiti, ed è semplicemente impensabile, diciamo. Io credo che sia stato davvero un punto di caduta del dibattito quando Berlusconi dal palco ha preteso le dimissioni di Fini da presidente della Camera, perché chiunque abbia minima conoscenza della storia italiana sa che tanti presidenti della Camera hanno esercitato un importante ruolo politico nei rispettivi partiti. Detto questo, non mi piace neanche questo diciamo arrotolarsi del dibattito sul politichese. Le questioni che pone Fini sono questioni politiche di lungo periodo. Il rapporto tra il PDL e la Lega è un fatto importante. I contenuti che diamo a questo rapporto alla vigilia di votazioni importanti sui decreti attuativi del federalismo incideranno sulla vita degli italiani, delle persone normali che escono, vanno a lavorare tutti i giorni. Da qui a moltissimi anni, noi stiamo in questo triennio, ridiscuteremo gli assetti profondi del paese, quelli che incidono sulla coesione sociale del paese. Ma si potrà, chiedo a Non è possibile farlo in uno spirito di sudditanza psicologica e politica nei confronti di un partito che è un alleato fedele, ma che persegue i suoi interessi, che sono in tanti casi, secondo me, divergenti da quelli che deve avere un grande partito nazionale come il PD. Allora, visto che ho un minuto per chiudere, Storace, vista da fuori, lei non è in Parlamento, ma le riforme a questo punto, ma in questa situazione che succederà in Parlamento da domani, insomma? Ma questo è proprio il problema per cui Fini non può fare il Presidente della Camera. A me dispiace che Flavia ironizzi sulle questioni legate alla Costituzione. Per anni sono stato membro della Commissione che si occupa di queste cose, quindi se magari si informasse sarebbe ancora meglio. Tutta questa storia, la difesa dell'unità nazionale, che c'entra anche col processo riformatore. Ieri Fini l'ha pubblicata all'accusa al PDL di non aver fatto una discussione sulle manifestazioni per il 150esimo unità d'Italia. Ma che è roba che deve discutere un partito questo? Se Fini voleva dire una cosa seria, doveva dire non voglio più sentire parlare di Padania, non dire che non hanno fatto il calendario delle manifestazioni, perché di questo abbiamo sentito. Beh, le accuse alla Lega le ha fatte, insomma. Si è ricordato dopo 15 anni che ci va a braccetto. È una finzione. Perché Fini in questi 15 anni non è stato un ospite del Grand Hotel di Venezia, è stato un soggetto attivo. Ma lei che lo conosce, dove vuole andare Fini, secondo lei? Tempo ci sarebbe una barzelletta fantastica che purtroppo non si può raccontare, ma credo che non lo sappia nemmeno lui. Credo che abbia sbagliato completamente strategia, e questo lo dimostrano anche i numeri, perché piano piano stanno abbandonando tutti. Allora, ci dobbiamo fermare qui, grazie. Votate ancora, per il momento il 68% dici no, è aumentato, 73%, non ha ragionato, oltre 3.000 i voti, Fini dovrebbe lasciare il PDL. Ringrazio davvero tutti per essere intervenuti, Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, do la linea al nostro direttore che oggi condurrà 9 in punto. E che dire, bianco, nero e tradio24.it, noi ci sentiamo lunedì mattina.